America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Right now we're working to determine whether there were American citizens on board. Presidente Barack Obama, lo avete sentito, il tono molto serio, drammatico della sua voce, il presidente che parla dell'aereo della Malaysian Airlines MH17, un Boeing 777 che era partito da Amsterdam per andare a Kuala Lumpur, che è precipitato nei cieli dell'Ucraina orientale. Poco dopo abbiamo saputo che non si è trattato di un incidente, ma che questo aereo è stato abbattuto da un missile terra-aria. Dopo che c'era già stato un aumento delle tensioni tra mercoledì notte e ieri mattina per una nuova sfilza di sanzioni annunciata da Washington contro la Russia, c'è questa escalation, questo abbattimento nei cieli dell'Ucraina orientale di questo aereo con 295 persone a bordo. Ecco, questo episodio diventa il simbolo drammatico, devo dire, di una situazione che non è più sostenibile, non si può più giustificare che la Russia continui a giocare, tra virgolette, con la situazione ucraina, ora annunciando marcia indietro, ora rivendicando i diritti dei ribelli, che secondo un documento di mercoledì, tra l'altro un documento del Dipartimento di Stato, ricevono aiuti materiali e forniture militari da Mosca, né si può più giustificare che l'America proceda con delle sanzioni che in ultima analisi lasciano il tempo che trovano, anzi finiscono con il danneggiare entità economiche occidentali senza raggiungere gli obiettivi voluti contro la Russia. E il punto di svolta in questo abbattimento tragico di questo aereo, in questa morte di 295 innocenti, è che l'opinione pubblica è stata esposta a questo dramma. Poiché sia stato un errore voluto o sia stato un missile partito per caso, resta il fatto che quando un conflitto locale travolge una linea aerea internazionale e uccide appunto 295 persone, si varca una soglia che non si sarebbe mai dovuta superare. Da oggi occorre agire e occorre soprattutto riflettere sulla degenerazione di più ampio respiro di un ordine internazionale che non tiene più. America 24. Israel's prime minister has instructed the IDF, the Israeli Defense Forces, to begin ground operations. L'attacco a Gaza, c'era stato un cessate il fuoco. Devo dire, ieri è stata una giornata micidiale dal punto di vista della copertura giornalistica, perché abbiamo avuto notizie drammatiche, ognuna sarebbe stata la notizia dell'anno nel giro di poche ore. Prima l'aereo abbattuto nei cieli dell'Ucraina, poi l'attacco di Israele a Gaza, l'attacco di terra e poi anche un momento di paura, perché era stato trovato un pacco, una borsa ai cancelli nord della Casa Bianca. La Casa Bianca era stata chiusa, poi l'allarme è stato cancellato. Però che è successo ieri in questa giornata drammatica? Quando l'ultimo cessate il fuoco è caduto, Israele ha deciso di procedere con le forze di terra a Gaza. Dal punto di vista di Gerusalemme, questo è l'unico modo per controllare i tunnel, per ripulirli dei missili che a centinaia sono stati lanciati su Israele, per cercare di debellare gli arsenali di Hamas. Ecco, e questo attacco, dopo 10 giorni di battaglia aerea, in qualche modo era nelle carte, perché si sapeva che Israele avrebbe voluto arrivare fino in fondo. Ma resta l'ultimo episodio successivo alla caduta dell'aereo della fragilità internazionale, di cui parliamo spesso qui ad America 24, che conferma la percezione di una totale mancanza di leadership a livello globale. We knew that the subject of the plane came up during the course of the conversation. What we've learned from this readout. È vero, Vladimir Putin e Barack Obama, come ci dice il newscaster che vi ho fatto sentire, a un certo punto si sono parlati brevemente ieri durante la giornata. È stato lo stesso Putin a chiamare Obama per dargli notizia dell'incidente aereo, dell'abbattimento del jet, e tuttavia dalle dichiarazioni dei due leader, non solo quelle di ieri che sono state molto contenute, ma anche quelle dei giorni immediatamente precedenti a questa escalation della crisi, dobbiamo concludere che ci sono molti livelli diversi, 3 livelli diversi direi, che si sviluppano attorno alla crisi generalizzata dei nostri giorni. Non è un caso che abbia fatto sentire questa dichiarazione di Vladimir Putin, che parla dal Brasile, Vladimir Putin che ha attaccato le sanzioni americane, Vladimir Putin che ha offerto un quadro molto chiaro di quella che è la sua percezione dell'attuale situazione internazionale. Ed arriviamo al primo livello di quei 3 livelli di cui parlavo prima. Il primo livello è che in Europa orientale, come in Siria, in Iraq, in Pakistan, in Afghanistan, a Gaza, in Africa, si combatte alla fine per chiudere un periodo di governance mondiale che è stato dominato dalla fine della Guerra Fredda dagli Stati Uniti d'America, per aprirne un altro che ancora non è definito. Devo dire, non si vede alcun contorno di questo nuovo tentativo di governance, e questo ce lo ha detto proprio Vladimir Putin senza mezzi termini dal Brasile, parlando delle nuove sanzioni americane. Il suo contrattacco retorico è stato questo: ha detto, testuali parole, in generale coloro che pianificano la politica estera americana, e non solo quella di oggi ma degli ultimi 10-15 anni, conducono secondo me una politica estera molto aggressiva e comunque non professionale. Putin elenca poi una serie di disastri di politica estera, dall'Egitto all'Iraq, alla Siria, all'Afghanistan, alla Libia, all'Africa, appunto, dove l'attivismo americano ha lasciato dietro di sé dei disastri, dice Putin, fino all'Ucraina. Hanno toccato l'Ucraina, ha concluso, e ci sono stati dei problemi. Ecco, non credo che possa esserci una dichiarazione di intenti più chiara per decretare che, secondo Mosca, la Pax Americana ha fatto il suo tempo. E questo, non so voi, ma devo dire, a me preoccupa non poco. Dilma Rousseff, presidente brasiliano, sul piano dell'immagine simbolica, il contrappunto a quello che vi dicevo, lo troviamo in questa foto dell'altro giorno in Brasile, che mostrava i quattro ospiti di Dilma Rousseff, e cioè il presidente russo Vladimir Putin, quello indiano Narendra Modi, quello cinese Xi Jinping e quello sudafricano Jacob Zuma. Ecco, erano in cerchio, con le mani riunite al centro, per celebrare il lancio di una nuova banca per lo sviluppo che avrà sede a Shanghai. Si trattava chiaramente di un'immagine di sfida all'America e all'Occidente in genere. Questo processo di riorganizzazione della governance mondiale, secondo me, è in corso, non si risolverà in tempi brevi, ma ripropone una situazione da guerra fredda, pur con parametri diversi. E basti pensare che la Rousseff, per esempio, ha cancellato una cena di Stato a Washington alcuni mesi fa. Vi dicevo, una situazione di guerra fredda che si snoderà per alcuni anni. Poi il secondo livello è quello ucraino, quello locale, urgentissimo, soprattutto dopo l'incidente di ieri, che ha comunque fatto da catalizzatore. Il problema è soprattutto di Putin, devo dire, era lui che diceva il problema americano. Il punto è che i due leader si devono incontrare, basta telefonate, si devono incontrare per arrivare a una soluzione negoziata ed equa. Quando si arriva, come dicevo in apertura, all'attacco e alla morte di 295 passeggeri internazionali, è il momento di dire basta. Arriviamo alle sanzioni. Non sono convinto che le sanzioni americane funzionino, vi darò poi in un'altra occasione alcuni dettagli tecnici, ma il risultato di queste sanzioni contro aziende importantissime russe come Gazprom, Novatek, e queste aziende si rivolgeranno ad altri finanziatori che non siano occidentali, troveranno lo stesso i soldi, le banche occidentali, anche italiane, resteranno senza business, che finirà con l'andare ad altri. Dunque, basta con questa azione, reazione, mando i carri armati, li tolgo, aiuto i ribelli, metto le sanzioni, non le metto, occorre che i due leader si incontrino. Occorre che, se davvero c'è un nuovo ordine internazionale in via di definizione, beh, che questa definizione sia accelerata. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, devo dire, in questa situazione non posso che tornare alle canzoni pacifiste. Ne ho una su YouTube che ho tradotto dalle parole di Pete Seeger. Chi vuole potrà trovarla sotto Mario Platero Pete Seeger. Ma vi propongo di Lenny Kravitz, We Want Peace. Vogliamo la pace. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going. America 24.